Buongiorno. Non so se questi sono i reduci della fiera, pastore, o quelli che devono andare dopo. Ok, che bello essere insieme, vero? Avete la gioia di venire la domenica qui? Credo, dice, se siamo qui, ma qualche volta anche il dovere è la gioia e qualche volta anche la forzatura è la gioia. Perché? Perché vogliamo incontrare il Signore. Ora, noi questa mattina andremo a trattare un soggetto a dir poco mai trattato nella Bibbia e che forse poche volte, ecco, vogliamo subito leggere? Ma siate ricolmi di spirito. Questo è il tema, questo è il soggetto di questa mattina. Però noi dobbiamo vedere anche quello che è il capitolo 5 che leggiamo. L'avete già letto? La voglia, questo voleva proprio dire. Ecco, allora tu, almeno siamo in due, dai. Nella settimana scorsa era il capitolo 4 e parlava della santificazione, se ci ricordiamo, e ci ricordiamo, e abbiamo visto in una maniera molto bella, illustrata, che la santificazione è un processo di togliere i pesi di dossi. Vi ricordate del palloncino? Il palloncino che era legato alla pietra, non volava, tagliata, ma ancora non volava. Perché? Perché aveva altri pesi attaccati addosso. Man mano che quei pesi venivano tolti, il palloncino ha preso il volo. E questo è il processo della santificazione. Poi il pastore ci ha portato nella svestizione e vestizione. Ho vissuto quando ero piccolo che aiutavo il prete a vestirsi, ha messo la stola, ha messo come si chiamava, non mi ricordo, il pastorale e così via dicendo. Ci ha fatto vedere che la santificazione è un processo di svestirsi, ma anche vestirsi o rivestirsi e non rimanere in quelle condizioni. Ora il capitolo 5, che è il nostro capitolo di questa mattina, praticamente non è altro che la continua di quello, prosegue. E voi immaginate che è stato preso come soggetto ripieni di Spirito Santo. È l'unico passaggio più corto che ci sia in tutto questo capitolo che parla di quello. Ma è perché? Perché quella è la soluzione, perché quella è l'arma, perché quello è il mezzo per non solo realizzare, ma anche verificare la santificazione. Quindi noi andremo a vedere proprio quella che è l'arma, però nel frattempo mi dovete permettere una breve, tra virgolette forse, ma prefazione riguardo al capitolo. Perciò andiamo a leggere il verso 1 e il verso 2, proseguiremo per paragrafi, nel senso che questi paragrafi descrivono una situazione, quello che noi viviamo, che ci sta intorno. Il verso 1 e il verso 2 dice: siate dunque imitatori di Dio come figli amati e camminate nell'amore come anche Cristo ci ha amati e ha dato se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio quale profumo di odore soave. Paolo inizia subito col botto. Imitatori di Dio. Come si fa? Paolo era come a noi, era uno che sparava 100 per avere 10. E anche noi molte volte le esagerazioni ci servono appena a ottenere, come dire, le briciole, il poco. Ma non è così, sapete? Perché? Perché anche da parte mia proprio l'errore è sempre stato quello di concentrarmi su imita Dio. E come faccio io a imitare Dio? Come faccio a imitare Dio? Onnisciente, onnipresente, onnipotente, ogni cosa, mi posso nemmeno fare una virgola di tutto questo? Assolutamente, assolutamente no. Ma l'errore che io commettevo era quello di concentrarmi sul imita Dio, mentre nello stesso passo ci viene data la soluzione. Prendi quello che è alla tua portata del carattere di Dio. E che cosa è alla nostra portata? Amare. Allora, quello che noi dobbiamo fare per imitare il Signore è proprio sforzarci di amare, educarci ad amare, come dire, costruire l'amore dentro di noi. Dove non c'è, ci metti un mattoncino, qualche cosa che lo fa costruire. Dici, chi amare? Questo lo sai tu chi devi amare. E chi devi amare? Chi dice Gesù che devi amare? Il prossimo non è nessuno. Perché anche il buon samaritano, no? E chi è il mio prossimo? Chi è il mio prossimo? È proprio quello che ti dà fastidio. È proprio quello che ti dà, ti mette tante di quei puncoli dentro che non riesci a proseguire. Quello è il prossimo dove io mi devo esercitare ad amare. Vedete, la parola di Dio, io lo dico sempre ed è così, è molto semplice. Sì, è vero, il problema può essere grande, imitare Dio, ma la soluzione è la più semplice che ci sia, la più elementare. È talmente semplice la parola di Dio che sembra difficile. Perché? Perché viene, no, ma non può essere così semplice, non può essere così elementare, ci deve essere qualcosa di più sostanzioso. No, la parola di Dio è semplice. Quando la leggi e la mediti, tu trovi anche la risposta in quello stesso passo, anche se sembra complicato. È talmente semplice che ti dà sempre, sempre, sempre la risposta. La risposta noi non l'abbiamo quando guardiamo oltre quello che il Signore ci dice e ci vuole dire. Perciò guarda a quello che semplicemente il Signore sta chiedendo a te. Imitare Dio è proprio amando l'altro. Io lo imito in un poco quando voglio bene a un altro. Sto imitando Dio, sto imitando il Signore, sto mettendo in pratica quello che Lui ha fatto andando alla croce. Sto imitando Dio, volendo bene all'altro. Ha voluto bene a me che mi ha accettato così come ero. Vedete? E questo è l'aspetto più semplice. E così prosegue. Noi possiamo, anzi andiamo avanti, perché questo è solo nel verso 3 e 4, sempre di Efesi. Noi stiamo leggendo tutta quella parte, la prima parte di Efesini capitolo 5. Dice, ha iniziato col botto e continua con l'artificio. Come si addice a santi, né fornicazione, né alcuna impurità, né avarizia sia neppure nominata tra di voi, né oscenità, né parole sciocche o volgari, che sono cose sconvenienti, ma piuttosto abbondi il ringraziamento. Amen. Qual è la soluzione qui che il Signore ci dà? Dite voi la parola. Ringraziamento. Dice, ma che ci azzecca il ringraziamento di non come se dicesse né fornicazione, ringraziamento, non lega, non ha a che fare. Se io sto vivendo pensieri e sentimenti di tentazione, di fornicazione, di impurità o di avarizia o di quant'altro, di parole cattive, di parole non buone, ringrazio. Di che cosa devo ringraziare? Ringrazia continuamente, perché se tu ringrazi vuol dire che hai, tu ringrazi quando hai una cosa o in aspettativa di averla. Quando chiedi al bar, vai a chiedere: desiderato un caffè, grazie, perché lo ricevi. Se non ringrazi è perché stai cercando, e vuol dire che non hai. E se stai cercando, la nostra ricerca molte volte va nella fornicazione, nella impurità, nell'avarizia, nell'oscenità, nelle parole sciocche o volgari. E quando cerchiamo queste cose è perché non abbiamo, perché c'è vuoto dentro di noi. Ecco perché il ringraziamento deve abbondare per ogni cosa. Non hai di che cosa ringraziare, inventalo e vedi che poi incominci veramente a gioire. Ma continuiamo, perché questo è solo un vedere e rivedere. Anche questo è un ringraziamento, non vi allarmate. Sta ringraziando la mamma che gli dà attenzione o che non gliela dà. Verso 3 e 4. No, non è quello. I versi 3 e 4. Ecco. Vabbè, a Sara, grazie Sara, sei un tesoro. Lo sapete che in questa settimana si laurea Sara? Che bello, eh? Come si addice a Santi, e questo era il 3 e 4, allora so io che sono imbrogliato. No, è il passo che dice né una cosa né l'altra. Vabbè, allora lo leggiamo di qua, vai, lo leggo, l'ho imbrogliata, poverina Sara. Allora il verso 4, no, ma come si addice a Santi, è quello, sì. E poi il verso 4 dice: né oscenità, né parole volgari, né niente di tutto questo sia fra di voi, ma ringrazia. Poi il 5 e il 7, l'abbiamo detto, sono io. Vabbè, è perché non guardo gli appunti, quello è. Poi la mente va... È buono ogni tanto guardare gli appunti. Poi io ce li ho alla maniera antica, allora poi scrivo sempre più piccolo. E gli occhi sono sempre meno focalizzati, allora va bene. Il 5 e il 7, scusami Sara, perché sappiatelo bene, nessun fornicatore o impuro o avaro che è un idolatra ha eredità nel regno di Cristo e di Dio. Nessuno vi seduca con vani ragionamenti, infatti è per queste cose che l'ira di Dio viene sugli uomini ribelli. Non siate dunque loro compagni. La soluzione? Scompagnati. Non essere compagno. Il detto antico dice: dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. Sbaglia? No. E qui è scritto esattamente la stessa cosa. Se tu... Perché la scelta è nostra con chi andare, i giovani con quale comitiva farseli, gli anziani con quale società andare e così via dicendo. Gli amici che noi ci scegliamo sono quelli che determinano molte volte il nostro comportamento. Allora scompagnati, non andare. Se sai che accade già questo e questo, perché vai? Perché ti vai a mettere in un nido, in un alveare di vespe? Perché lo sai già che sarai punto, prima o poi sarai punto in quella situazione. Scompagno, non essere di loro compagno. Punto. Questo è, ma vedete qua, ma ci rendiamo conto quando è semplice la situazione? La complicanza è che io non mi voglio scompagnare con quello. E lì è la scelta. E lì è la scelta. E lì ci vuole la forza. Ancora, verso 8 a 10. Perché in passato eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Comportatevi come figli di luce, poiché il frutto della luce consiste in tutto ciò che è bontà, che è buono, giustizia e verità, esaminando che cosa sia gradito al Signore. La soluzione? Che cosa piace a Dio in questa situazione che sto vivendo? Ce la dobbiamo chiedere continuamente, sempre, in ogni, anche della più piccola, che cosa farebbe il Signore, che cosa gli piace in questa situazione che io sto vivendo, o a livello interiore, o a livello nel rapporto con gli altri, che cosa piace al Signore che io faccia, che io dica, che io sia. Quella è la soluzione, eppure è molto semplice, noi lo usiamo. Lo usiamo naturalmente questo sistema o questo metodo. Quando sei fidanzato, qual è l'unico pensiero? Devo fare quello che gli piace. Quando sei sposato, è lo stesso. Devo fare quello. Non devo fare, mi devo adeguare per vivere bene insieme. Questo è il sistema. Che cosa piace a Dio? E allora io gioirò e sperimenterò i frutti che il Signore ha messo a mia disposizione. Ma se io guardo solo che cosa piace a me, e allora ne cogli quei frutti. I frutti che noi cogliamo sono le scelte che noi facciamo, né più e né meno. L'altra parte è il verso dall'11 al 14. Vedete come se in ogni passo, ma in ogni passo c'è la soluzione, è assurdo, in ogni passo c'è la soluzione. Vedete, non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, piuttosto denunciatele. Perché è vergognoso perfino il parlare delle cose che costoro fanno di nascosto. Ma tutte le cose, quando sono denunciate dalla luce, diventano manifeste, poiché tutto ciò che è manifesto è luce. Per questo è detto, risvegliati o tu che dormi e risorgi dai morti e Cristo ti inonderà di luce. La soluzione? La soluzione? Qual è? Che stiamo attenti proprio, o stiamo proprio così presi e in catalessi, o denunciatele. Denuncia, quando vivi qualcosa del genere, non ti trattenere, non essere educato, non essere timido, non essere introverso, denuncia quello che non è buono, che non piace al Signore. Denuncia, logicamente è il modo che devi valutare e trattenere, ma non il fatto. Denunciare non vuol dire iniziare con... Ma vuol dire iniziare proprio, sai... E mostrare che quella cosa non porta bene e non fa bene. Vedete, in ogni cosa, molto semplicemente, c'è anche l'altro verso, dal 15 al 17. Guardate dunque con diligenza a come vi comportate, non da stolti, ma da saggi, recuperando il tempo, perché i giorni sono malvagi. Perciò non siate disavveduti, ma intendete bene quale sia la volontà di Dio. Saggi. Saggio non vuol dire essere, che so io, fuori dal comune, vuol dire semplicemente chiedersi qual è la volontà di Dio, che cosa vuole Dio in questa situazione, nella mia vita, che cosa il Signore si aspetta da me. Tu lo sai, io lo so, in ogni situazione, ed è questa la soluzione. Vedete, in ogni passo, la parola di Dio ci dà la soluzione molto semplice, molto elementare, di come non andare lontano da Lui, ma seguire la sua strada. E poi, dulcis in fundo, questa doveva essere solo la prefazione. Meno male, come l'ho pensata, non lo so. Ma va bene, adesso viene il soggetto, voi immaginate, ma va bene anche in questa maniera. L'arma per realizzare tutte queste cose, per poter avere il coraggio di denunciare, per poter avere la forza di dire no. Ci vuole l'arma, ci vuole il rinforzamento della propria persona, perché è facile a dirsi denuncia, oppure cerca la volontà di Dio, oppure è facile a dirsi, ma è nel fare, perché quando stai vivendo la situazione non hai la freschezza mentale e sentimentale di poter comprendere queste cose. Ma il Signore ci ha muniti di un'arma molto potente, che è il soggetto di questa mattina, e cioè, di nuovo, il verso, dal verso 18 al verso 21. Non ubriacatevi, il vino porta alla dissolutezza, ma siate ricolmi di spirito, parlandovi con salmi, inni e cantici spirituali, cantando e salmeggiando con il vostro cuore al Signore, ringraziando continuamente per ogni cosa Dio Padre, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, sottomettendovi gli uni agli altri nel timore di Cristo. La soluzione? Questa è strana come soluzione. Ubriacatevi, dice Paolo, ubriacatevi. Certamente non di vino. Forse oggi avrebbe scritto un'altra sostanza, ma lasciamo stare. Allora era il vino. Ubriacatevi. Vuol dire ripieni, pieni di Spirito Santo, pieni di Spirito Santo, e non di tutte quelle cose, perché qual è il detto del vino? Bevi che dimentichi, ma poi, quando è passato l'euforia e l'ebbrezza del vino, ritornano le stesse cose. Riempiti di Spirito Santo e ti dà la soluzione non solo per superare, ma anche per vincere completamente quella situazione. Lo Spirito Santo, io posso, vedete, lo Spirito Santo nella parola di Dio è paragonata a molte cose, o almeno figurativamente viene rappresentato ora con una cosa, ora con un altro. Per esempio, a che cosa viene rappresentato lo Spirito Santo? Alla colomba, che più? Al fuoco, che più? Al vento, e così via dicendo. Ma ci sono due aspetti che noi dobbiamo considerare molto fortemente a che cosa è paragonato lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è paragonato al donatore, colui che dà. 1 Corinzi, capitolo 12, leggiamo il verso 1 e il verso 11, poi in mezzo ci sono tutti i doni. Circa i doni spirituali, fratelli, non voglio che siate nell'ignoranza. E poi nel verso 11 dice: ma tutte queste cose le opera quell'unico e medesimo Spirito, distribuendo i doni a ciascuno in particolare come vuole. È il donatore, è lui che dona i mezzi, le armi spicciole per poter affrontare tutte le situazioni. Io posso fare alcuni esempi, per esempio Paolo nel capitolo 14 dice: desiderate l'amore, non trascurando però di ricercare i doni spirituali. E in primis dice la profezia, perché serve per la Chiesa. Paolo ha ragione, però io prendo un altro aspetto, perché subito dopo dice: è il parlare in lingue, è il parlare in lingue, questo è il dono che io più esercito, forse perché mi sento inferiore a tutti gli altri. A questo no, io lo esercito molto forte, il parlare in lingue. Parlo a proposito e a sproposito in lingue. Lo parlo continuamente dentro di me. Perché? Perché è l'arma che fa superare ogni ansia, che fa superare ogni paura, ogni incertezza. Quando io parlo in lingue si dissolve. Questo, allora, io lo dico, va bene, invece di andare dal psicologo, psicanalista, parla in nuove lingue. Ora, non voglio dire che non devi andare, perché poi Sara mi prende, non è buono, perché tutto ciò che migliora la nostra persona fa bene, perciò andiamo al medico, perciò andiamo a tutte le parti, andiamo pure al commercialista, che immagina. Allora, ma parla in lingue. Quando vivi una situazione, parla dentro di te in lingue, ed è questo, cioè tu parli in lingue. Io non so se mai hai sperimentato che il parlare in lingue ti fa vivere l'ebbrezza del vino. A me è successo, e più volte, proprio è come che voli, è come che non sei più in quella situazione, è come che non vivi più quello stato d'animo. È incredibile il parlare in lingue, quante cose riesce a guarire dentro di noi, perché è scritto che in spirito noi proferiamo misteri. A chi? Quando parlo in lingue, a chi dico i miei misteri? A Dio. È scritto letteralmente, né proprio a Dio. Quindi questo vuol dire che gli altri non capiscono, ecco le giaculatorie, e che il diavolo non comprende. E nella mia relazione con Dio io ricevo guarigione e sanezza in tutti gli aspetti della mia persona. Ecco perché parla in lingue, perché poi logicamente, se sono forte io, ecco perché io promuovo molto le nuove lingue, forse più della profezia e degli altri doni, perché se io sono forte, ho rinforzato nel mio essere, dal parlare in lingue, ogni aspetto che abbiamo letto questa mattina, che cosa abbiamo letto riguardo al ringraziare, diventa più forte, riguardo al dire no, diventa più forte, il cercare la volontà di Dio diventa più forte. Se sono forte io, diventa forte tutto ciò che mi circonda. Ecco che il parlare in lingue veramente è qualcosa che va fuori dal comune, è un'arma strana, l'ho detto, è strano, ti senti un po' scemo, ti senti un po' ma che cosa è, ti sei, non sono solo io, è inutile che ridete di me, ma qui quando lo facciamo ti senti possibile che sta cosa che non ha né piedi, non ha né testa né coda possa risolvere tante situazioni. Sì, lo fa. Tu fallo e vedi se non riesci veramente a superare quelle situazioni. Tanto è scemo, è stupido, è illogico. Ma io già sono stupido per conto mio. Una cosa in più. Che cosa vuoi che faccia? Solo del bene. Fallo. Questo è solo per dire, fallo, facciamolo, perché questo cambia totalmente, veramente, il nostro modo di essere. Io non lo so l'orologio come va, se siamo a meno o più, perché a quella distanza non lo riesco a vedere. Ok, va bene, l'ultimo aspetto. Un'altra parte, perché proprio su questi io voglio, queste due cose, voglio mettere l'accento di che cosa vuol dire essere ripieni dello Spirito Santo. Abbiamo visto i doni, ma logicamente che quando noi parliamo di dono, parliamo almeno di 9 doni, c'è chi ne parla di 59, ma almeno di 9 doni. E allora anche dice, perché Paolo non ha messo in primis potenti operazioni, perché deriva poi dal ricercare l'edificazione della Chiesa e l'edificazione in noi stessi. Allora poi viene anche la tua preghiera per potenti operazioni, acquisisce più forza e anche la saggezza, perché fra i doni c'è sapienza, c'è conoscenza, c'è discernimento. Questo acquisisce più forza. L'altro aspetto o l'altra, come dire, metafora a cui viene paragonato lo Spirito Santo è l'albero. Forse non l'abbiamo mai visto in questi termini, ma se noi andiamo a leggere Galati 5, il verso 22, vedete che cosa è scritto. Il frutto. Non è che devi essere uno scienziato per sapere che il frutto è attaccato all'albero. Il frutto dello spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Perché viene paragonato a un albero lo Spirito Santo? Perché tutto quello che vuole donare è quello che vuole mettere a tua disposizione, come il frutto va colto. È vero che c'è all'albero e che c'è nello Spirito Santo, ma può essere anche maturo e anche pronto, ma se non lo cogli, non te ne nutri e non ne assapori quello che contiene. Lo devi cogliere e per cogliere è volta per volta, a seconda delle situazioni che tu stai vivendo. Stai vivendo una situazione tremenda, tragica, tutto quanto. Allora dice, e la gioia? Che c'entra la gioia mentre tu sapessi quel che io sto passando? La gioia, altro che gioia c'è dentro di me. Ed è proprio quello. Se tu cogli quel frutto, vuol dire che fai un poco come Davide, doveva affrontare un problema enorme che era il gigante Golia. E che cosa ha fatto proprio prima di affrontarlo? Io credo, ha alzato la mano e ha detto, l'Iddio che mi ha aiutato, diciamo le parole nostre, mi ha soccorso nel vincere quella situazione. E quell'altra situazione mi aiuterà anche adesso. Viene automaticamente la gioia dentro. Pensa e ripensa alle cose che, in cui il Signore ti ha aiutato, in quella situazione, rivedile dentro di te, valle a rivedere regolarmente, perché questo costituiscono, come dire, l'humus per la gioia in ogni momento. Gioia non vuol dire ridere, gioia vuol dire avere quella serenità, pace e volto rilassato in ogni situazione. E questo lo fa quando noi cogliamo quel frutto. Che dire dell'autocontrollo? L'autocontrollo, dice l'autocontrollo, quel merita di essere. E proprio là il Signore dice: cogli il frutto, cogli il frutto, prendi l'autocontrollo. Questo non vuol dire fare i vermi dentro. Non è quello autocontrollo, quello è andare oppure, che anzi ti rovini tu stesso. L'autocontrollo è anche dire che cosa direbbe a Lui il Signore in questo momento. Quale deve essere il mio atteggiamento nel vedere come il samaritano, quello lì per terra, mezzo morto, che atteggiamento devo prendere? È facile passare oltre, è facile girare la testa, ma rimane il tutto. Ma se tu cogli il frutto, nel cogliere il frutto tu applichi quella che è la potenza dell'arma dello Spirito Santo in quella situazione, in quello che stai vivendo. E così anche qui ci sono 9 frutti. Andiamoli a leggere, anche i doni, anche se sembrano impossibili da realizzare, proprio io devo essere, leggili, guarda e vedi che molte di quelle cose tu già le stai realizzando. Allora devi solo fare il passo oltre per accrescere e ricevere quello che il Signore ha messo a tua disposizione. Vogliamo alzarci in piedi? Ha detto amen. E io vorrei veramente fare un appello, molto semplice, alla vecchia maniera, di venire avanti, però lo dobbiamo fare presto perché credo che a naso sono andato oltre. Vorrei chiedere a chi non ha mai fatto la richiesta di ricevere il battesimo, la pienezza dello Spirito Santo dentro di sé, di venire avanti. Ma anche a chi desidererebbe l'utilizzo dei doni e dei frutti nella propria vita e che forse molto facilmente viene trascurato e viene messo da parte. In 10 secondi chiedo, venite avanti e preghiamo per questo. Tu lo sai quello che stai domandando. Fallo il passo di venire avanti. Fallo il tradizionale e abitudinario passo di venire avanti, perché questo ti fa prendere una decisione e non ti fa rimanere sulle tue. Non è importante la situazione che stai vivendo, è importante quello che ti aspetti che il Signore operi nella tua vita. Perciò puoi continuare a venire avanti nel frattempo che noi preghiamo per chi sta e che ha preso queste decisioni di venire avanti. Preghiamo, tutto il resto chiedo di stendere le mani, ma anche poggiare una mano su se stesso, per rivedere queste cose. Padre, nel nome di Gesù, colui che è andato alla croce proprio per offrirci e darci tutte queste cose, io chiedo che tu possa ora intervenire con autorità e potenza e ricolmare del tuo Santo Spirito, Signore, affinché ognuno possa essere ripieno, ebro di te in ogni situazione. Ma anche, Signore, io chiedo veramente che sia i doni e sia i frutti possano essere dentro di noi l'immagine di quello che tu sei nella nostra vita. Perciò benedico ognuno, Signore, e chiedo che tu li tocchi uno ad uno, ricolmando il loro cuore di quello che è la loro richiesta in questo momento, nel tuo nome, Gesù. Amen.